Sì, buongiorno, dottor Pardo, dottor Cinta, grazie di esistere. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allo stadio con quegli occhi iniettati di gioia. Ma signori, erano lì una ventina, ma secondo voi, i miei giocatori sono alti il doppio, secondo voi gente come Berkic, come Conti, come Diakité, se volavano schiaffi e pugni, si facevano prendere a schiaffi e pugni, ma non scherziamo, dai. Se ci sono dei ragazzi che fanno le 4 di mattina, si viene a sapere immediatamente e io vi posso assicurare che da questo punto di vista qui a Cagliari, ho vissuto esperienze all'Inter ben drammatiche, come ben sapete, negli anni qui a Cagliari, di giocatori che fanno le 3 e le 4 di mattina, a parte a Capodanno, io sinceramente non ne ho trovati, né nessuno me li ha riferiti. Vi faccio anche per ragionare su quello che avrebbe potuto essere, perché vi invito, ripeto, a dirmi cosa sarebbe successo in un'altra piazza italiana, vedi Bergamo di recente, se la tua squadra è messa male. Assolutamente no, non credo proprio che una cosa del genere. Il mister ha fatto piazze ben più cattive di Cagliari. Noi in questo momento, se non ci fosse la situazione del Parma, saremmo ultimi in classifica e ad Assemini venerdì mi risulta siano arrivati a contestare, mi pare, fra i 20 e i 30 tifosi, quindi credo che 20-30 tifosi non si vedono neanche in eccellenza quando una squadra è ultima in classifica. Incontri il tuo amico tifoso della squadra avversaria. Hanno vinto loro, e hanno vinto loro perché sono 20-30, ma figuriamoci, facciamo intimidire, in eccellenza succede ben di peggio. Zeman se ne va irrevocabilmente, ma non è mica per i tifosi, no. Dice Giulini, presidente del Cagliari, in eccellenza succede di peggio, ma figuratevi se i miei ragazzoni si cagano addosso per questi qui. Ma no, ma no, ma difendiamoli. In altre piazze, ad esempio Bergamo, invece rimettono le querele, perché poverini. Scrive oggi mio amico Cristiano Gatti nel suo commento sul Corriere della Sera, domani lo sento, abbiamo già un appuntamento. Mentre si chiude il super processo al tifo violento tra assalti alla festa della Lega, scontri assortiti e pionieristica invasione del centro di allenamento, mentre fioccano condanne per 47 anni e sanzioni per 90.000 euro, questo per dire come a Bergamo sia del tutto un omaggio a De Coubertin, l'Atalanta decide di stracciare la querela proprio per l'invasione a Zingonia. E spiega il direttore generale Marino, che peraltro è una persona che io stimo moltissimo, questo per inciso non lo scrive Cristiano Gatti, lo dico io. I 40 imputati ci hanno mandato una lettera toccante che sa di pentimento e redenzione. Come restare sordi a tanta umanità? Ecco la soluzione. Atalanta dimentica e loro promettono che faranno volontariato alla Caritas, nonostante il giudice alla fine li assolva comunque. E quindi, cari giocatori, tutti a pecoronati a 90 gradi davanti alle curve a farvi arringare, che sia il Boccia, che siano i 20, perché non sono mica più di 20, quelli di Cagliari. Mentre Conti porta il simbolo sulla fascia di capitano degli ultra, mentre Cosso se l'è fatto tatuare addosso. Ma sono bravi ragazzi, ma sono 20, ma cosa vi fanno? Ma avete paura di questi qui? Allora, la prossima volta andiamo anch'io, Alessandro Marco Tulli il professore, Daniele Bonamici in redazione e Gianmarco Ferronato in regia, andiamo anche noi e vogliamo parlare con i giocatori, e fargli un mazzo così per le nostre squadre, se vincono, se perdono, se ci gira. Chi ci ferma? La polizia? Volete venire a fermarci? E perché? Che abbiamo fatto? Noi abbiamo diritto di contestare, giusto o no? 800 24 00 24. Ci può stare, caro Benitez, che anche tu ne hai vista qualcuna. Tanto in eccellenza succede ben di peggio. E dunque Ancelotti ha parlato di quello che succede invece in Spagna. Ma qua la contestazione si limita, si è limitata qualche volta a fischi allo stadio, al gioco della squadra, cioè, no, tutto quello che gli ultra, gli estrissioni sono completamente dimenticati e non esistono più. Il Real Madrid ha fatto un grande lavoro negli ultimi due anni per eliminare le frange violente del tifo, e lo ha fatto, e lo stadio, e c'è una critica legata al gioco della squadra con fischi, perché è un pubblico molto esigente, ma è tutto un altro tipo di violenze. Sì, Carletto, va bene tutto, però poi succede anche a Valdivevas che mettono uno striscione, non pallotta maiale, ma qualcosa di simile, appeso ai cancelli quando perdete, oppure che al rientro dopo il classico le macchine di Bale, di non ricordo più chi fosse quell'altro, vengono presi a calci, loro a insulti, quindi magari qualcosa succede anche lì, ma tanto sono 20 o 30, ragazzi, che cosa sono 20 o 30? Però è chiaro che in Spagna la pagnolada, c'è contestazioni più soft, vincete 4-0 ma non ci piace questo gioco. Beh, queste sono le contestazioni normali in Spagna, però vabbè, alla fine non ce la vengono a raccontare, perché poi anche lì, se non ricordo male, quest'anno c'è scappato il morto. Ricordo male? No, non ricordo male. Deportivo La Coruña, Atletico Madrid, Deportivo La Coruña, eccetera, eccetera, anche lì. Ma la polizia non sapeva che questi si stavano per ammazzare, dunque sono arrivati in pullman, uno è morto, ma nessuno sapeva niente. Quindi adesso non ce la vengono a raccontare, anche se tutta la vita con Carletto Ancelotti. Ieri sera abbiamo visto anche una partita di calcio che ha chiuso la 31esima giornata con il Verona, che a mio parere in maniera del tutto meritata ha vinto a Firenze, e la Fiorentina lascia la corsa per la Champions League. Montella poi dice così: ognuno è libero di fare come vuole, ma credo che la squadra ci abbia messo tutto in campo, accettiamo i fischi, ma credo che la squadra, per quanto fatto fino ad oggi, non li meritasse, però basta, ognuno quando paga il biglietto è libero di fare quello che crede. Non sono così sicuro che fossero tutti paganti, che di solito fischia di più chi viene omaggiato dei biglietti, però va bene così. Questa era Montella, non manca il solito minchione che si chiama Marcello, che mi scrive una mail al giorno: rilassati Saputello, non ho sentito lo stesso sarcasmo davanti al pupone a Capitan Futuro a 90 gradi sotto la sud. Si vede che non eri collegato, mio caro. Ciao e grazie, se non mi scrivi più mi fa un favore. Traffico. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. Fa la torre per Gilardino, giù, calcio di rigore per la Fiorentina. Calcio di rigore per la Fiorentina, giallo Rafael. Va Diamanti col sinistro, Rafael gli dice di no, si rimane 0-0. Il cross in aria per Obadì, che la lascia Cristodoulopoulos, controlla, calcia netto, male, e gol di Obadì. Obadì al 45esimo, cioè al 90esimo, fa 1-0. C'è chi mi scrive: si sente che non te ne fotte nulla, fai solo la sceneggiata come da contratto. No, da contratto mi pagano 4 soldi, è uguale, quindi è una cosa che mi fa profondamente incazzare, questa dei presidenti, che ma sono 20, ma l'Atalanta, ma sono dei bravi ragazzi, vanno alla Caritas. No, non lo faccio da contratto perché mi pagherebbero lo stesso quei 4 soldi, quindi non, caro ascoltatore che non ti firmi, non è così. Ciao Pierluigi Pardo. Che succede? No, niente, Giulini dice che in eccellenza succede molto di peggio, ma cosa vuoi che sia? Sono 4 ragazzi, quelli dell'Atalanta, vanno alla Caritas, ma rimettiamo la denuncia, ma sì. E poi c'è Rea che dice: ma il Boccia non mi risulta, ma chi è? Era quello che stava sulla tribuna ad arringarti. Questa, perdonami, ma sono cose che mi fanno veramente girare i coglioni. Sì, beh, l'ipocrisia fa abbastanza. Ah. Cioè, sarebbe molto più sano, secondo me, riconoscere che si ha paura, una parola grossa, o che E io sono d'accordo, io sono d'accordo con le società, cioè io sono d'accordissimo con l'idea. Ieri sera abbiamo parlato lungamente a Tiki-Taka, al di là del fatto che, lo sai, io ho una posizione, cioè io non sono per la generalizzazione a prescindere, cioè, e sono comunque una persona portata alla responsabilizzazione più che alla repressione, per cui proprio per cultura c'ho questa cosa qui, sarò un sognatore, ma penso che ci si debba provare a parlare. Detto questo, poi chi sbaglia deve essere punito, punto, e questa responsabilità ce l'hanno le forze dell'ordine, la magistratura e i politici. Anche le società. Anche le società. Sì, però ti posso dire, le società sono l'anello debole di questa catena. Io lo dico, e in qualche modo l'ho detto anche Pallotta nella sua presa di posizione, comunque coraggiosa. Pallotta dice una cosa molto chiara, dice: io non ho strumenti per controllare. Poi prende una posizione forte che aveva l'ambizione di aprire un fronte, una breccia, e di essere in qualche modo qualcosa di storico nella storia del nostro calcio, ma di fondo l'impotenza delle società è evidente. Poi che ci siano delle situazioni, ma poi infatti è rimasto da solo, senza, non c'erano grossi dubbi su questo, è rimasto solo insieme a quello che abita dall'altra parte del Tevere, che si può dire un sacco di cose, ma questa posizione l'ha presa in maniera chiara, e in parte la Juventus. Sono rimasti i tre piccoli apache. Appunto, anche la Juventus rinunciò, sì, lo ricordiamo, sì, sì, a fare ricorso. I tre piccoli apache. Anche se poi, ripeto, secondo me, nello specifico, la Roma aveva pienamente diritto a fare ricorso, e secondo me purtroppo la chiusura della curva non risolve niente. Se è vista qualcosa, poteva anche essere considerata un male necessario. Serve solo simbolicamente l'atto di rinuncia da parte della Roma a fare evidentemente questo tipo di a cercare di aprire un fronte. Detto questo, non sono le società, le società non hanno in 18 casi su 20 stadi di proprietà, non hanno la possibilità di fare dei controlli militari all'interno dei loro stadi, sono in difficoltà nel momento nel quale devono rescindere questo tipo di rapporto con le curve. Cioè, il caso del Chelsea che denuncia quel tifoso fuori dalla metropolitana perché compie un atto di razzismo, è un atto bello, bellissimo, forte, ma che ha alle spalle la forza di un sistema, quello inglese, che funziona. Per cui il Chelsea quella posizione lì la può prendere con la certezza del diritto e della pena da parte delle autorità inglesi. In Italia, se una società del genere fa una roba di questo tipo, si espone a un rischio di rappresaglia e rischia che quella persona lì poi due giorni dopo è comunque libera. Cioè, non so come dirti. Sì, ma ho capito, non hanno gli strumenti giudiziari, non hanno gli strumenti legali per opporsi, però è bello vedere però ogni tanto i tre piccoli indiani che si arrabbiano e che dicono: ok, fucking idiots, colpa vostra. Poi gli danno del maiale, poi tutto quanto, e poi lo Tito che dice: io lo faccio danni, gira sotto scorta, e poi la Juventus che ci prova e si prende i suoi insulti. Senti, parliamo di calcio e della Fiorentina di ieri sera, con chi ha vinto quella partita, Andrea Mandorlini. Ciao mister, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. La vittoria più bella della stagione? No. Importante, forse la più importante, ma più bella. Quale allora? Speriamo che ce ne siano delle altre. Ah, ho capito. Vuoi dirmi, il meglio deve ancora venire? Ma diciamo che insomma quest'anno con le grandi, insomma, abbiamo tutto il Napoli, abbiamo pareggiato con l'Inter e il Milan, insomma abbiamo battuto la Fiorentina, che considero una grande, insomma adesso ci è rimasta solo la Juventus dall'ultima giornata. Magari la vittoria più bella la teniamo per l'ultima. Ah, okay. Hai capito, Pardo? Sì, io credo, tiene per la fine, quella con la Juventus, in cui ci sono dei conti sospeso storici, no? Credo che onestamente quest'anno ci sia un discreto pantheon di buone prestazioni, per cui io ho fatto Verona-Napoli, è una partita per certi versi anche migliore di quella di ieri, nel senso fu veramente a me ieri Verona è piaciuto dominio. Tanto no, ma il Verona soprattutto poi a me è piaciuto tanto, e questo vorrei chiedere al mister, considerando il fatto che potremmo teoricamente parlare di una squadra già stazia che ha raggiunto l'obiettivo, soprattutto fuori casa. Sappiamo che i tifosi del Verona da questo punto di vista hanno un'enorme spinta nelle partite in casa, ma che anche fuori casa si riesca ad avere questo livello di intensità. Come si riesce ad allenare le motivazioni dei giocatori, anche se ma guarda, i numeri sono importanti, quindi quest'anno i numeri dicono che abbiamo fatto quasi, però più punti fuori casa. Non so, ogni stagione ha una sua storia. E forse quest'anno siamo un po' più così, più sfacciati. pregiati, non lo so, forse di cercare di andare a fare punti sempre, quindi ci ha permesso di fare punti fuori casa. Abbiamo fatto un risultato importante, mancano ancora 7 gare e credo che per il nostro obiettivo, per quello della salvezza, siamo ormai, senza fare i soliti discorsi, quasi in porto. Adesso è bello, sollecito le soddisfazioni, mancano 7 partite, ne abbiamo 5 in casa e dobbiamo tentare di fare il massimo. Non credo che arriveremo ai punti dello scorso anno, però migliorare la nostra classifica credo che sia. Però viste le premesse, cioè ti hanno venduto qualche giocatore. A proposito, noi nelle due sessioni di mercato abbiamo perso, cioè abbiamo cambiato 20 giocatori. Esatto. E abbiamo avuto i nostri momenti buoni, i nostri momenti di difficoltà. Però prima del Napoli abbiamo avuto 4 partite in cui credo che abbiamo un po' messo i puntini in chiave, insomma, della salvezza. Poi perdere con la Lazio si poteva stare e credo che abbiamo fatto degli errori. Con l'Inter una partita si poteva essere riaperta, abbiamo sbagliato il calcio di rigore. Ieri sera ci è tornato qualcosa e abbiamo vinto un campo difficile. Senti, mi spieghi 2 segreti di Pulcinella. Uno è Tony. E l'altro invece, che non è più con te ma hai turbe. Ma guarda, ieri sera anche Vincenzo mi chiedeva ma cosa gli fai a Tony, che... cosa gli fai? Lo metti in freezer. Io, lui ha trovato forse qua, ma è difficile spiegare. Luca è incredibile, perché è chiaro che la gestione è importante, quindi durante la settimana e poi anche durante le partite, perché è chiaro che all'inizio della stagione qualche volta lo cambiavo, quindi la prendeva male, quindi abbiamo deciso, insomma, di andare avanti sotto un altro punto di vista, e lui ripaga con tanti gol. Ma dicevano, appunto, l'anno scorso ha fatto 20 gol perché c'erano i turbi di qua di là, Romulo e Giorginio. I turbi Romulo e Giorginio non ci sono più, Marchino non c'è più e Tony gol continua a fare lo stesso. Manuele, non lo so, le pressioni sono diverse, noi troviamo un calcio di ripartenza, alla Roma è diverso, gli spazi sono diversi, lui è anche un giocatore bravo a giocare nello stretto, quindi è difficile dire il perché e per come, però non pensavo neanche io che avesse tutte queste difficoltà, però credo un periodo di ambientamento, di adattamento, bisogna darlo a tutti e credo che lo stesso gli Ice, che quest'anno sta facendo bene come lo scorso anno, ha avuto un periodo di difficoltà. Bisogna avere pazienza e credo che poi Manu alla fine ne uscirà. Cioè, credi che sia un giocatore di qualità comunque? No, è un giocatore di qualità, di corsa, di gamba, è un giocatore rapido, è un giocatore che però deve lavorare, va stimolato, va anche pungolato, va anche un po' bastonato. Io non lo so, quello che è qua ha fatto 8 gol, ne ha fatto fare, penso, 10-12 a Luca, era un giocatore per noi, per il nostro modo giocare, incredibile. Alla Roma gli spazi sono diversi e lui deve, però ripeto, ha anche qualità nel breve, anzi è molto bravo nel breve, quindi io credo soltanto questione di tempo. Com'è il rapporto con Sogliano? Mi è sembrata una coppia, insomma... Tre anni... Rodata. 3 anni è arrivato tanto, insomma, quindi Sogliano è bravo. È bravo a scovare tanti tanti giocatori e l'allenatore deve essere poi in grado di farli rendere. Un po' questo è il nostro modo di lavorare. Hai avuto paura che te lo portassero via al Milan, eh? Ma non so, si sente, si legge di tutto, quindi la verità la sa lui. Sinceramente a me non ha mai detto niente, quindi finché lo vedo a fianco a me va bene. Andiamo avanti così. Grazie, mister. No, Tony che fa? Aspetta, Tony che fa? Un altro che a fianco non sta male, sta bene. Quindi l'anno prossimo già ha deciso? E anche lui decide, lui con calma, non ha di queste prerogative, però gli stimoli credo che si vedano, ci siano. Un anno in più è sempre un anno in più, quindi da un momento all'altro può avere il crollo, come gli dico sempre. Però finché è questo, dai, resta, dai, rimane lì Andrea, dai. Non lo so, deciderà lui. Grazie mister. Grazie. A tutti. Grazie. Ciao. Andrea Mandorlini. Pier, ci vediamo un attimo per il traffico, sì. Poi abbiamo già ascoltatori, Dante da Firenze, Ismen da Pesaro e altri, ne aspettiamo. 800 24 00 24, numero verde. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Ricomincia. convocati. Dunque, tutti convocati a cominciare da Dante da Firenze, Ismen da Pesaro, 800240024. Tra poco con Pierluigi Pardo pure scopriremo qualcosa sul futuro del Milan. Dante, buongiorno. Ma perché sto Dante? Io sono Alessandro, non sono Dante. Ah sì? Ma veramente? No, allora, perché mi ha scritto Dante? Dante da Firenze, però Dante da Firenze ci Dante sta. Da Firenze ci sta Dante bene, da Firenze. Poteva andare peggio. L'inizio della Divina Commedia? Vabbè, l'inizio è che io per l'amore di Dio, complimenti al Verona tutto quanto. Però vabbè, Alessandro alias Dante, dimmi. No, dico Montella. Ma si può fare un turnover e cambiare 7 giocatori ogni volta? Cioè, secondo me la colpa è sua. Cioè, non è possibile cambiare squadra ogni volta. Cioè, anche no, il Napoli è sceso in campo con Vargas che non gioca mai, l'ha messo davanti. Sì. Ieri sera si parte con Salah in panchina. Esatto, io sono abbastanza d'accordo, sai, Alessandro Dante, perché quando un conto la Fiorentina fosse fuori da qualunque tipo di discorso, allora fai turnover, ok, Dinamo Kiev, allora quello è l'obiettivo, eccetera. Però poi vai a leggere la classifica e scopri che la sconfitta di ieri è stata abbastanza pesante, perché il Napoli era a 53 punti, la Fiorentina è rimasta a 49, la Roma vediamo dove va, la Lazio vediamo se si riprende la sconfitta. Poi io tutta sta necessità di turnover, io dico alla Fiorentina gioca Salah e altri 10, come disse un giorno Mourinho a proposito di Ibrahimovic. Quindi tra l'altro Salah ha 20 anni, cioè ce la potrà fare a giocare 180 minuti alla settimana? In questo momento della stagione, secondo me il turnover o è un'esigenza concreta o secondo me non ha ragione di esistere. Fa bene la Juventus a praticare in campionato, perché l'obiettivo è già conseguito, però la Fiorentina, che ha ancora un'ipotetica possibilità, ipotetica non so quanto, adesso pressoché nulla, di raggiungere la Champions League, fare turnover mi sembra discutibile. Sì, no, ma assolutamente, direi che è stata c'è stato un eccesso di turnover. Poi le partite sono anche decise dagli episodi. Se Diamanti segnava quel rigore avremmo detto bravo Montella che è riuscito a far riposare i migliori, che ha portato a casa i 3 punti. Quindi insomma, poi bisogna sempre insomma essere un po' onesti, secondo me le partite sono anche decise da giri di vento del destino. Detto questo, c'è una tendenza, secondo me, in generale un po' all'eccesso di turnover, a complicarsi il pane, no, in certe situazioni. Sì. Ieri probabilmente Montella ha esagerato da questo punto di vista. È chiaro che la priorità in questo momento è la partita di giovedì, ed è altrettanto chiaro che i risultati che erano arrivati fra sabato e domenica mettevano la Fiorentina in una condizione abbastanza tranquilla, abbastanza serena, perché nessuno aveva accorciato. Era paradossalmente la possibilità per chiudere definitivamente il discorso in caso di vittoria, per blindare un posto. Se ieri la Fiorentina avesse vinto, penso avrebbe blindato il posto in Europa League l'anno prossimo. Sì, ma dimmi una cosa, Pierluigi, ma secondo te perché ci sono allenatori che del turnover se ne fregano? Io continuo a pensare a Mourinho del triplete, ma ce ne sono molti altri. Anche nel passato tu mi dici era diverso, ma Van Basten non usciva mai dal campo. Cioè, ci sono allenatori che se ne infischiano bellamente del turnover e dicono ci sono dei giocatori intoccabili su cui fondiamo la squadra, e quelli giocano mercoledì, domenica, mercoledì, martedì, giovedì e non escono dal campo. Altri che invece hanno questa necessità impellente di preservare le energie di uno di 20 anni che è il tuo miglior giocatore, comunque quello on fire in quel momento. Cioè, è curioso, eh? No, sono d'accordissimo, sono stra d'accordo. Sono due squadre di pensiero diverse. Secondo me, come tutte le cose della vita, non è che c'è una il giusto e lo sbagliato. Ci sono delle vie di mezzo che bisogna cercare di portare avanti in maniera virtuosa. In qualche circostanza le seconde linee possono essere anche più motivate, perché possono magari giocarsi quella partita come l'occasione della vita. Insomma, la Juve ha passato il turno con la Fiorentina, con una squadra da mezzo turnover e mezzo no. Secondo me la cosa importante è non perdere la fisionomia, come per esempio succedeva al Napoli di Mazzarri, un esempio che cito spesso perché me lo ricordo molto bene, in Europa League. C'era un periodo proprio che l'Europa League era vissuta come una competizione che era più che altro un fastidio, anche lo stesso De Laurentiis in quegli anni, insomma, non nascondeva il suo disinteresse, e io mi ricordo le partite imbarazzanti del Napoli con due titolari su 11, con veramente gente che non giocava mai, come fosse proprio... Non solo il Napoli, ricordo partite della Sampdoria, in cui giocavano, a momenti giocavano in 10 dall'inizio. Sì, sì, cioè. Quindi, voglio dirti, come tutte le cose della vita, ci vuole l'equilibrio, non è facile trovarlo, e poi tante volte sono gli episodi o gli accidenti positivi o negativi di una partita che decidono se Montella nello specifico è stato bravissimo, è stato uno strafigo oppure sbagliato. Sì, sì, però guarda, io credo che sia meglio giocare 90 minuti in più e arrivare magari alla Dinamo Kiev con la benzina positiva di una vittoria ottenuta in campionato, magari segnando, mi riferisco ad esempio a Salah, piuttosto che arrivarci dalla panchina con dei casini derivanti da una sconfitta che di fatto ti taglia fuori da qualche ambizione che avevi ancora di acciuffare quel terzo posto. Ismen Pesaro, buongiorno. Buongiorno a Pardo e a Ginta. Dica. Io volevo fare un appello a Pardo, siccome lui lavora nel Mediaset, di fare un appello a Berlusconi di non vendere agli asiatici, se no faremo la fine dell'Inter. Ah, fai l'appello, no, anzi sai chi lo fa? Belinazzo lo fa l'appello. Perché io non ho tutte queste entrature, lavoro a Mediaset ma non ho questo potere. Comunque Berlusconi non venda, anzi venda, faccia come le pare, ecco. No, è meglio che non venda agli asiatici. Non venda agli asiatici, no. No, se no facciamo la fine dell'Inter e dopo sì, di nuovo i soldi. Se no ci tocca chiamare Ferrero, che l'altro già detto cinesi tutti appesi, mi tocca chiamare Ferrero. Marco Berinazzo, fallo tu l'appello, ciao, da Sole 24 Ore, istituzionalmente. Ciao, noi gli appelli non ne facciamo, insomma, siamo fautori del mercato, della legge della domanda e dell'offerta. Ho risposto bene? Sì, molto, molto bene, ma lo vende il Milan o no? Adesso mi dici se lo vende o no. Beh, sì, credo che ormai ci siamo, insomma, mi ha sorpreso, devo dire, questo annuncio di Mr. B, di Touchball, che ha appunto annunciato il suo arrivo in Italia, proprio perché secondo me non ce n'era bisogno. Magari ha le carte in tasca, Sai, lì il problema, per quelle che sono le mie informazioni, è che terminata la due diligence ai suoi soci, ai suoi partner, non è che sia piaciuta tantissimo la situazione di bilancio del Milan. E quindi risulta che hanno un po' abbassato quello che poteva essere il prezzo, esattamente, e attendevano appunto in questi giorni una risposta da Arcore. Quindi il fatto che lui abbia annunciato il suo arrivo mi fa presumere che questa offerta più bassa sia stata accettata, e parliamo di un'offerta comunque per la maggioranza del club. Subito? O il 20% subito. E poi il resto come si legge? Per quello che mi risulta si stava trattando, a un certo punto, insomma, c'era l'ipotesi del 20%, poi si è passati direttamente, insomma, all'ipotesi di un acquisto di una quota di maggioranza. Poi il fatto che, insomma, escano tanti articoli che sono, come dire, cortine fumogene, o magari c'è un fondamento di verità, perché magari i media che li trasmettono sono vicini a quell'area, che ritirano fuori, insomma, la pista cinese in salsa brandizzata, mi fa pensare, insomma, che ci possa essere da parte di Berlusconi il tentativo comunque di creare un'asta, comunque di alzare il prezzo. Io credo che, se anche sono passati gli anni, insomma, trattare con Berlusconi è sempre trattare con Berlusconi. Sei soddisfatto, Pierluigi? Sì, della spiegazione del professor Berinazzo assolutamente sono soddisfatto. Io credo che questa è la pista che ha sostenuto Berinazzo fin dall'inizio. Sì, credo, fra l'altro, che mi può correggere se sbaglio, mediamente, insomma, nella due diligence quasi sempre esce fuori qualcosa di non preventivabile prima, e qualche volta c'è anche un po' di schermaglia, nel senso che poi il prezzo viene fissato ovviamente dopo la due diligence, e qualche volta il prezzo è più basso di quello che assolutamente no, nel senso assolutamente come andare a comprare una casa 100.000 euro, poi la vedo, la controllo, vedo tratti, poi dico qua devo spendere 1.000 euro per fare. E quindi è chiaro che qualcosa nel caso specifico ballano, diciamo, i debiti finanziari del 200 milioni al 31 dicembre 2013 erano 250, vista la stagione credo che insomma perlomeno non saranno diminuiti, forse saranno leggermente aumentati, e quindi lì c'è da capire chi si accolla. Normalmente se li accolla il compratore, ma naturalmente il prezzo poi di acquisto deve tener conto, no, di questo, certo, accollo, per cui si stava discutendo proprio di questo, e il prezzo dai 750 stava andando, diciamo, nella forchetta che avevo preventivato, che aveva i 750 milioni al centro, ora si sta andando più verso i 500 e meno verso, quindi non è il miliardo di cui si parlava che vorrebbe Berlusconi, però mi sembra in linea, no? Cioè, mi sembra comunque una buona offerta, la migliore che Berlusconi ha avuto in questi anni, o no? Credo di sì, guarda, Berlusconi ha speso in questi anni 650 milioni per il Milan e altri 50-60 sono stati, come dire, rifinanziati quest'anno e si prospettano per l'anno prossimo, quindi una spesa di 700 milioni, potersi sgravare dei debiti è importante per lui, e quindi diciamo uscirebbe con qualcosa in tasca, no? In pareggio, se non con qualche centinaio di milioni in tasca, insomma, credo sia quello poi l'obiettivo finale di Berlusconi, ma ripeto, per una sua capacità e volontà di giocatore, insomma, d'azzardo, nel senso di grande uomo d'affari, che gli è venuta bene, che sa giocare le sue carte, che l'ha sempre fatto e che vuole farlo anche in questo caso. Beh, gli è riuscita bene, se va così gli è riuscita bene, molto meglio che a Moratti, di cui tra poco parleremo dopo il traffico. Marco Berinazzo, stai con noi ovviamente con Pierluigi Pardo. Cinesi, sì. Un momento, cinesi tutti appesi, un momento epocale, altri tre mesi, se sì, farei proprio un primo piano stretto, tre mesi ancora. Sì, sì. Ma prova tipo di chi? Di cinesi? I cinesi tutti appesi, altri perché tre mesi. Non si può dire, perché ha detto? Mica ho detto il nome di qualcuno, tutti convocati. Convocati. Quindi dicevamo, Marco Berinazzo, se così vanno le cose, Berlusconi nella cessione del Milan si mette in tasca un po' di soldi, cosa che Moratti è stato ben lontano dal fare. Un punto sull'Inter invece, è arrivato Toir, si è visto il derby, si è arrabbiato la sua parte, e poi che succede? Beh, in realtà Moratti aveva conservato ancora quel 30% di azioni che nei progetti, diciamo, ottimistici doveva poi essere rivenduto a un centinaio di milioni, insomma, per mettere anche a lui di rientrare un po' delle spese. Moratti ha speso il doppio di Berlusconi nella sua gestione dell'Inter, insomma, 1,3 miliardi, quindi per lui era molto più difficile rientrare. Al momento si va avanti cercando di capire quello che potrà essere il mercato fatto poi in estate, un mercato che comunque fin d'ora è incentrato sull'autofinanziamento, quindi io credo che tra i tre o quattro giocatori che l'Inter può vendere bene, un paio partiranno, si cercherà di fare cassa con i giocatori che sono in giro. Quali sono i giocatori che puoi vendere bene all'Inter? Pierluigi, aiutami. Andanovic, Icardi, sta per rinnovare. Icardi, su Kovacic ci può essere qualcuno, anche se non è una grande stagione, no, non è una grande stagione, cioè, il tesoretto dell'Inter Andanovic, Icardi, credo sì che il candidato numero uno sia comunque Andanovic. E che poi si cercherà, ripeto, di fare cassa con i giocatori che sono in prestito, che sono in giro, e nel frattempo, insomma, Mancini dovrà capire se con qualche innesto il sogno e Yaya Touré, che mi risulta abbia una volontà di venire all'Inter, restando Mancini, ovviamente al netto dell'ingegneria finanziaria a cui bisogna ricorrere per spalmare il suo, il suo ingaggio, però insomma con un giocatore così e con tanti giovani, l'esperienza di Mancini, la squadra effettivamente potrebbe aspirare a un salto di qualità, magari non a vincere lo scudetto come Mancini aveva detto qualche mese fa, però a tornare in Europa penso che ci sia qualche buona chance, insomma, senza dover nuovamente ripartire da capo, il che significherebbe perdere un altro anno, insomma, con un nuovo allenatore. Chiaro, un po' meglio del decimo si può fare. Grazie Marco. Grazie. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Luigi Pisa, buongiorno. Buongiorno, senta, io vorrei solo dirvi che il thailandese lì, se è vero, ci ha già guadagnato il 25%, e che il cambio fra la moneta thailandese e l'euro si è svalutato l'euro del 25%. Quindi scusate se è poco. Quindi? È nulla, se costava 1000 una cosa svalutata del 25% della moneta costa già 7,50. Ho capito, ma non viene a pagare con... non credo, non lo so, però non credo che queste transazioni vengano fatte con moneta locale, non so se pagano... Sicuramente no, ma se i suoi capitali sono nella moneta locale, quando lui va a comprare l'euro gli costa il 25% meno, diciamo che tutto il prodotto europeo in questa fase è sicuramente più competitivo rispetto a prima, questo non dubbi, motivo per il quale, questa roba da Barizoni, motivo per il quale evidentemente in questa fase le nostre aziende, non soltanto le nostre, quelle europee, sono maggiormente agevolate nell'esportare, ovviamente, no? Perché chiaramente i prezzi sono più bassi per chi compra in dollari, cioè per chi vive in dollari o vive in altre valute, quindi questo è un discorso che c'è di fondo. Però io credo che qui la valutazione sia sul valore economico, chiaramente sull'introito per Berlusconi e per il Milan eventuale, che è quello, perché chiaramente il prezzo viene corrisposto in euro, e quello che ci diceva Beninazzo è che evidentemente questa due diligence potrebbe, secondo lui, aver portato a un ridimensionamento del prezzo, che ripeto, poi da quel pochissimo che so io di giornalismo economico sportivo, alla fine è una cosa abbastanza logica, abbastanza normale, perché è un po' anche il gioco delle parti. C'è l'incognita di chi c'è dietro di lui, dietro questo Mr. B, perché Beninazzo ci ha sempre raccontato come ci fossero capitali provenienti dalla Cina, da Singapore, e sono capitali su cui chi di dovere dovrà investigare, perché non sempre trattasi di capitali esattamente puliti, quindi questo è un punto, Pier. Sì, beh, io di questo praticamente non so proprio nulla, però certo, è chiaro, esiste anche questo fronte sulla trasparenza che è importante, però voglio dire, in questo siamo tutti sulla stessa barca, tutti di tutti i paesi, di tutti i campionati, cioè è chiaro che adesso siamo in una fase di assoluta apertura delle frontiere, è un mondo globale, è un mondo dove un cinese, un thailandese può pensare di comprare un club di Milano o viceversa, anche se la seconda ipotesi è un pochino meno probabile, quindi questo fa parte delle stesse attenzioni. Hai visto mai? Loro vengono a comprare i nostri con i soldoni, noi possiamo andare a comprare un club cinese magari di serie B e possiamo permettercelo di sbarcare da quelle parti. Senti, parliamo ancora con Matteo da Pescara, poi ti saluto. Pier, Matteo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, sono in parte d'accordo con lei per il fatto lì degli ultra dell'Atalanta e soprattutto sul fatto della Spagna, che certo non può dare lezioni visto che ci è scappato un morto qualche tempo fa. Sì, hanno anche loro i loro problemi, quindi senza esagerare, perché ne hanno meno di noi, però non si può dire che da quelle parti non c'è da niente del tutto. Il fatto, sai cos'è, che però a me fa imbufalire quanto fa imbufalire a lei, l'ho sentita prima abbastanza infervorata, che l'Italia è anche il paese dove una persona che è un pregiudicato dal punto di vista della giustizia sportiva diventa CT della nazionale, cioè cosa che secondo me è scandalosa. Io non mi sono... E mi piacerebbe vedere la stessa arrabbiatura da parte di molti di voi giornalisti quando succedono cose del genere. Ma questo è un fronte del tutto diverso, quindi non è una cosa che ha attinenza con quella di cui sopra, mi sembra. Poi Conte ha avuto i suoi problemi, ha patteggiato, sappiamo come quali siano i meccanismi della giustizia sportiva e quale sia il peso specifico del patteggiamento della giustizia sportiva. giusto o sbagliato che fosse, poi se qualcos'altro sarà successo, se qualcos'altro uscirà da questa storia, naturalmente ne parleremo e quant'altro. Poi il resto mi sembra abbastanza un preconcetto. Sì, poi insomma diciamo che ci sono anche all'estero delle fedine penali non completamente pulite, immacolate. No, è chiaro che quella vicenda lì è una vicenda che adesso da trattare in 35 secondi è abbastanza complicata, nel senso che sappiamo benissimo quelli che sono i punti di vista, sappiamo benissimo che Conte in una clamorosa conferenza stampa che ancora oggi insomma ispira Crozza e company ha dichiarato di dover essere stato costretto a patteggiare perché era la soluzione più semplice, più veloce e più indolore. Gli si può credere ovviamente, gli si può anche non credere. Quello che vogliamo, altro. Non dimenticando che il patteggiamento dal punto di vista della giustizia sportiva ha un contenuto diverso rispetto a quello che ha nella giustizia ordinaria. Assolutamente. Questo non va dimenticato. Assolutamente non va dimenticato, perché è oggettivamente la strada più veloce e meno grave, più indolore per riuscire a fare il proprio lavoro, insomma, nel più breve tempo possibile. Per cui ci sarebbe da discutere anche su questo. Conte a suo tempo mi è sembrato veramente molto arrabbiato sul fatto di non poter dimostrare o perlomeno di preferire, consigliato dagli avvocati, una scorciatoia piuttosto che la possibilità di dimostrare completamente la sua innocenza. Quindi la questione è particolarmente complicata, c'è tutta una serie di questioni che riguardano la complessità del diritto, sì, dove tante volte l'avvocato ti consiglia questo tipo di soluzione perché è quella che alla fine all'atto pratico ti rende la vita più semplice e questo è ciò che dice che è successo Conte. Poi ovviamente chi pensa che sia invece in malafede è libero di farlo, nessun problema. Ciao Pier, sentiamo domani, ciao. Baci. Andiamo con GR, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, io vi aspetto. Pardo, sei un grande, però sei un po' paraculo, te lo dico io. Tutti convocati. Dire, arriecchici. Tutti convocati. Lo stadio con quegli occhi iniettati di gioia. Ma signori, erano lì una ventina, ma secondo voi i miei giocatori sono alti il doppio? Secondo voi gente come Berkic, come Conti, come Diakité, se volavano schiaffi e pugni, si facevano prendere a schiaffi e pugni? Ma non scherziamo, dai. Se ci sono dei ragazzi che fanno le 4 di mattina si viene a sapere immediatamente e io vi posso assicurare che da questo punto di vista qui a Cagliari ho vissuto esperienze all'Inter ben drammatiche, come ben sapete, negli anni qui a Cagliari di giocatori che fanno le 3 e le 4 di mattina a parte Capodanno. Io sinceramente non ne ho trovati, né nessuno me li ha riferiti. Vi faccio anche per ragionare su quello che avrebbe potuto essere, perché vi invito, ripeto, a dirmi cosa sarebbe successo in un'altra piazza italiana, vedi Bergamo di recente, se la tua squadra è messa male. Assolutamente no, non credo proprio che una cosa del genere. Il mister ha fatto piazze ben più cattive di Cagliari. Noi in questo momento, se non ci fosse la situazione del Parma, saremmo ultimi in classifica e ad Assemini venerdì mi risulta siano arrivati a contestare, mi pare, fra i 20 e i 30 tifosi. Quindi credo che 20-30 tifosi non si vedono neanche in eccellenza quando una squadra è ultima in classifica. Incontri il tuo amico tifoso. C'è chi ci scrive, Davide da Legge, perché non parlate di Quidditch? Perché Albus Silente, Harry Potter e Ron Weasley non rispondono mai al telefono. Se no saremmo tentati di farlo, invece di risentire, l'ho fatto sentire all'inizio del programma, adesso caro amico Uligano, di nuovo con le parole di oggi di Giulini, presidente del Cagliari. E io vorrei chiedere a Francesco Bibi Velluzzi, collega della Gazzetta dello Sport, che domenica è stato aggredito dai giocatori del Cagliari, cioè i Berchi, non so chi fossero, però quei ragazzoni che non si fanno intimidire da 20 che vanno lì a far casino. Vorrei sapere da Bibi Velluzzi, sentendo Giulini, che cosa mi dice. Sì, erano 5 o 6 quelli che insomma tentato di aggredirmi. Conti mi ha preso per un braccio, ha tentato di portarmi dentro lo spogliatoio e altri 5 inveivano pesantemente, tra questi De Sena e tra questi Cossu, e gli altri erano più defilati, mi sembrava Lar, Murro e Pisano e Longo, che era il più imbestialito di tutti. Oggetto del contendere? Tanto ho perché sentito il pezzo sul retroscena con un titolo che ha dato molto fastidio soprattutto a De Sena, perché De Sena non è accusato tra virgolette di dolce vita, ma semplicemente aveva discusso, stando alle mie fonti, con dei tifosi. Io credo una cosa fondamentale in tutto questo, anche perché ho parlato fino a ieri a luna con Giulini, fin quando non sono ripartito da Cagliari, credo una cosa fondamentale, che i giocatori si facciano riferire quello che esce nei giornali e capiscano quello che vogliono capire e guardino un po' le figure, nel senso che c'era la figurina di De Sena, cioè la foto che era stata messa dalla mia redazione di Milano, che è quella che ha fatto anche il titolo. Sì. Detto questo, è chiaro che un giocatore non fa piacere sapere e vedere sul giornale che ha preso uno schiaffo dai tifosi, hanno un ego smisurato. E il loro potere è dato da quel che guadagnano, da quel che sono, e quindi l'idea di non uscire la sera, di sentirsi insultati ulteriormente, li fa impazzire. E il pezzo era quando dico leggono male, leggono solo le figure, dico che semplicemente non hanno letto il pezzo, perché quello che ho spiegato a lungo e a lungo scritto sarebbe stato avvistato in discoteca, senza scrivere quando. Ma un giocatore nel giorno di riposo, se va in discoteca, che male c'è, io lo ritengo una salvezza per il giocatore e non una tappa di ultra. Sì, e comunque non una ragione sufficiente per comportarsi da ultra, ma d'altra parte vediamo che c'è chi se lo porta sulla fascia di capitano, si vuole ultra, chi se lo porta tatuato sul polpaccio. Esatto. E c'è Giulini che dice sono 20, sono 20, ma cosa volete che facciano? Più se la sono presa con me. L'unica, ripeto, che vagamente capisco, essendo, diciamo, trasceso negli insulti che sono andati sul personale, sul familiare, e quindi non sono stati simpatici, però a De Sena do una piccola chance, perché De Sena, ripeto, è stato inserito un calderone in un titolo, in una foto che forse non meritava. Detto questo, gli scontri ci sono stati, i giocatori avrebbero preteso da me le informazioni sulle mie fonti, hanno detto come hai messo i nostri nomi, adesso devi dirci quali sono i tuoi nomi, che chissà di deontologia professionale, se no glielo spieghiamo, sono coperte da segreto. Esatto. Credo sia stato forse fatto un errore nel cercare un dialogo, un confronto dopo una partita persa 3-0 che sostanzialmente sanciva la retrocessione del Cagliari, e quindi gli animi erano già surriscaldati, e quindi forse si è tentato questo confronto, che poi c'è stato grazie all'intervento della questura, perché quando poi io sono andato a rivolgermi al questore, perché ovviamente gli ho detto qui è successo questo, io dallo stadio non posso uscire con le mie gambe, il questore, che sta indagando da tempo sui legami tra gli ultra e qualche giocatore del Cagliari, e ha voluto vederci chiaro ed è voluto andare lì dentro con me, che peraltro dovevo lavorare, dovevo scrivere i pezzi per il giorno dopo, quindi è stato molto, una cosa molto concitata, molto nervosa, molto difficile. Sono riuscito, devo dire, a rimanere molto calmo nonostante tutti gli insulti, senza mai rispondere a quelli che ho avuto. Credo che in questo quindi abbia avuto un minimo di sangue freddo, nonostante tremasse, lo dico senza problemi, perché comunque quando hai cinque di quelli là davanti, per fortuna non avevo di Akite, Berkic e Gonzalez, ma comunque vi assicuro che non è stato semplicissimo. Sì, però Bibi, ma quello che mi fa più male di tutti, poi vi lascio la domanda, però non sono gli insulti a caldo dei giocatori arrabbiati per un pezzo, sono cose che purtroppo sono sempre esistite, ma è scoprire la sera, poi vedendo delle immagini, che il capitano del Cagliari gioca con la fascia degli ultra che il giorno prima sono andati ad assaltare il Rio. Sì, però oggi Giulini ha detto che poveri ragazzi, sono 20, non fanno del male a nessuno, e che in eccellenza succede di peggio, e a me queste cose, vabbè. Poi diciamo, ma quel marziano di Pallotta, ma cosa gli viene in mente di definirli fucking idiots? Sono tre o quattro, poi scopriamo che sono 400-500 quelli che No, quelli che sono andati a Cagliari effettivamente erano una trentina, quindi... Ho capito, ma 20, 30, 40 o uno, e parlo anche di Bergamo, è ormai epidemica, no, questa cosa? Perché ne succedono 2-3 a settimana in questo momento, che sia a Cagliari, a Bergamo, a Varese, o a Roma, o dove vuoi tu, perché tanto basta aprire il giornale, ce n'è da tutte le parti. Non è neanche tanto una questione di numeri, è una questione di atteggiamento da parte della società. Fossero anche 5 e non 20, come può una società difendere l'operato di questi 5? Assolutamente. assolutamente, assolutamente, soprattutto difenderlo anche i giocatori, ma chiaro che Giolini si trova in una situazione in cui ogni giorno gliene succede una, è molto, lui sta tentando in tutti i modi di ridare credibilità a questa società, in questa città, dopo tutti i problemi che sì. ci sono stati con la gestione precedente. Devo dire che ha fatto l'impossibile dal punto di vista dal punto di vista gestionale, cioè marketing, logistica, ha fatto delle cose straordinarie, ha creato le biciclette nel parcheggio dello stadio, cosa che li invidiano tutti, i campi, il villaggio dei bambini, i biglietti a un euro, ha portato i tifosi gratis in curva col Chievo, con la curva di Sky, insomma ha fatto veramente delle cose incredibili. Il marketing non esisteva a Cagliari, era una persona, era una parola quasi sconosciuta. Quindi un lavoro straordinario con i ragazzi che ci lavorano, che lavorano, devo dire, 15 ore al giorno lì dentro. Quindi lui si vede avvilito da questa cosa, proprio perché sta cercando di fare, oltre ad aver ricreato il contatto con le istituzioni, perché oggi col sindaco Zedda c'è un rapporto vero e lo stadio si è potuto aprire e ci si è potuto giocare. Ricordiamo che Cellino aveva preso e aveva tolto la squadra dallo stadio, dalla città, portando la prima a Trieste e poi lo stadio della Lego, ce lo ricordiamo. Però sarà capitato anche a te nei giorni scorsi magari di provare a strappare un commento a qualche presidente la Serie A sulla presa di posizione di Pallotta? No, normalmente sì, ti rispondono ma perché io? Sondaggio e mi fa 11 su 19 non abbiamo risposto. Quindi mi sembra che questo sia abbastanza al punto, no? Quindi esatto, sì, e lo diceva ieri Malagò, finché non si ha un rapporto, non si riesce con fermezza a reagire in qualche modo. Io credo che ci sia notevole sudditanza da parte di questi, lo dimostra anche il fatto che a Cagliari sia stato rifatto il contratto a Cossu, che era un giocatore in scadenza che il precedente presidente aveva praticamente messo alla porta. Sì. E invece la nuova società si è ritrovata all'inizio del cammino con questo problema e l'ha risolto rifacendo il contratto a Cossu. Chiaro che Zeman non avrebbe voluto questi due. Zeman, quando è tornato a Cagliari, il primo giorno, primo allenamento, lo fa a porte aperte per la stampa. Pierluigi sa bene cosa sono i 15 minuti aperti alla stampa, cosa vediamo in nazionale o in altri ambiti di Champions, vediamo il Torello, qualche stretching, qualche palleggio. Questo fa vedere un quarto d'ora di partita dove non sono in campo né Cossu né Conti, cioè vuole dire questi qui non giocano più. Quindi era stato chiaro, nel momento in cui Conti ha smentito Zeman, ha smentito il vicepresidente Filucchi, che peraltro lavora a stretto contatto con la questura e ha fatto un lavoro incredibile da questo punto di vista, è chiaro che Zeman toglie il disturbo e se ne va, perché non può fare altro, ha fatto benissimo, e la situazione è invivibile da parte sua e giustamente oggi ha tolto il disturbo. Grazie Bibi, bocca al lupo. Grazie Francesco. Grazie a voi, tutti ciao. Convocati stasera, Pierluigi lo sa, siamo a cose più divertenti, quindi convochiamoli per stasera. Certamente, tutti convocati, che festeggiamo il mio compleanno e cioè, almeno sorridiamo un po'. Certo, a proposito, tanti auguri. Vi aspetto. Tanti auguri, Bibi. Tanti auguri. Ciao. Ciao Bibi Velluzzi. Claudio da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno, la sua trasmissione di ieri parlava sì. di atterraggi sulla Terra, di stadi cascati sulla Terra, no? Come da astronavi di altri mondi. No, per la precisione, dicevo che nel calcio italiano lo stadio della Juventus sembra un'astronave cascata perfetto. Sulla Terra in mezzo ai rottami. Allora, le posso dire che io in questo momento mi sento invece un terrestre su un'astronave, perché ascolto ieri una interessante trasmissione di vostra radio concorrente, anzi direi la radio madre, che mi parla dei morti sul lavoro negli stadi del Qatar, della situazione invivibile che vivono i lavoratori che stanno erigendo quella cattedrale per il gioco del calcio. E allora io dico, se tanto mi dà tanto, io in realtà mi sento su Marte, io non ho bisogno di cascare sulla Terra, perché diciamo che nessuno come dire, senta una certa quale imbarazzo, possiamo usare la parola imbarazzo, ha ancora un senso, imbarazzo a leggere queste notizie e a continuare a fungere e giocare. Dica. No, ma voglio dire, mi sembra che stiamo paragonando le mele con le pere, cioè qui stiamo parlando di normali stadi che vengono costruiti. Ho capito, ma perfettamente, io lo sto dicendo. Cioè, se vuole parliamo anche dei bambini che fanno i palloni. Cioè, è diverso, vedi. No, non mi sembra così diverso. Cioè, nel senso, io sto semplicemente sto semplicemente in Qatar. Come è successo a Rio, come succederà con le Olimpiadi, ci sono diversi problemi molto più complessi, molto più grandi, molto più importanti. Quello che io sto semplicemente parlando dello stato dell'arte degli stadi in Europa, che sia in Italia, in Francia, in Inghilterra, eccetera, eccetera. Ma io non sto parlando di ma ha fatto benissimo per sollevare uno, se si può, leggero velo sull'enorme, gigantesco menefreghismo e soprattutto come si possiamo dire pelo sullo stomaco che la nostra società di gente con i soldi ha nei confronti degli altri, perché era evidente ancora prima che si iniziassero i lavori che i lavori sarebbero stati gestiti in quella maniera, non è una novità. Quello è il paese perché si fanno le cose in quella maniera. Allora, quando io accetto di mandare a fare le cose in quella maniera, cari signori, io sono un pochino responsabile di quello che succede, perché l'ho scelto prima, sapendo che avevi questi piccoli problemini che non avresti risolto, anzi che avresti accettuato. Guardi, mi sembra che ci siano anche dei procedimenti in corso per fare chiarezza sulle modalità di assegnazione di vari grandi eventi, eccetera eccetera. C'è chi ha preso le mazzette, chi ha lucrato, chi ha preso le borse di denaro, poi è tutto vero, lei fa bene nel dire monitoriamo la situazione che si verifica in Qatar, però mi sembrano due piani leggermente diversi. Io dico soltanto che con il rispetto di tutte le norme e le regole possibili, civili, penali e di diritto urbanistico, facessero piacere di costruire magari qualche stadio in Italia che non sia un porcile come sono il 99% degli stati italiani. Mi permetto soltanto di dire questo, se poi succede qualche irregolarità siamo tutti qui pronti a denunciarlo, però mi sembrano due piani leggermente diversi. Poi se volete parliamo anche di sicurezza del lavoro in Qatar o in Brasile o in Arabia Saudita e così via, sono piani che hanno pieno diritto di cittadinanza. Tanto, pieno diritto di cittadinanza, anche un altro grande risultato sportivo di cui ieri non ho fatto in tempo a parlare, questa è Flavia Pennetta. Si ferma sul nastro, la volley di dritto, Sara Errani e Flavia Pennetta scrivono un'altra pagina di storia di questa magnifica Italia in Fed Cup, perché battono Serena Williams che non aveva mai perso in questa manifestazione, Italia che batte gli Stati Uniti che non avevano mai perso quando avevano schierato. Italia rimane in Serie A. Poi per un curioso gioco del destino oggi leggo il titolo della Gazzetta dello Sport, non è l'articolo di Vincenzo Martucci che è collegato con noi, lo saluto, ciao Vincenzo. Buongiorno. Però stavo parlando di cantieri, di nuovi stadi, non c'entra nulla però. Pennetta Errani, nuovo doppio per aprire il cantiere Rio, con tutto il rispetto delle procedure, in questo caso. Certo, sì, è un cantiere, vedi che il cantiere poi è sempre cantiere, nel senso che è un progetto per un doppio del quale io devo dirvi, non vorrei in questo contrastare la vostra trasmissione, io non sono d'accordo, nel senso che ecco, noi giornalisti in generale, il paese in particolare, tendiamo sempre a dimenticarci, a vedere l'ultima cosa e dimenticarci quello che è successo il giorno prima. Sì. Il doppio più forte non è Errani Pennetta, ma è Pennetta Vinci. La povera Vinci è colpevole di avere un problema a un gomito e quindi di non poter essere eleggibile al momento. Sì. Ma obiettivamente, quando si è rotto il doppio Errani Vinci per motivi un po' personali, un po' perché l'Errani, credo io, vuole ancora ritagliarsi una carriera di singolarista e perché appunto, ecco, la Vinci ha rimproverato magari qualche volta di troppo la Errani di essere meno brava di lei, ma la vera doppista è la Vinci. Ora è chiaro che in prospettiva olimpica il CONI, la Federazione Italiana Tennis cerchino in tutti i modi di garantirsi due singolariste che poi gli facciano anche il doppio, però io sul cemento potrei metterci, non posso scommettere che sono un giornalista, però ecco, scommettiamo un caffè, secondo me Vinci Pennetta battono Pennetta e Errani, ecco, questo per puntualizzare il mio punto di vista. Ma, però, ma secondo te è impossibile ricomporre invece quella coppia? In prospettiva Io non credo. Perché quando è finita? Io credo uno che qua è come un po' l'amore, no? Le grandi storie d'amore, quando sono finite quella era una storia d'amore tenuta un po' insieme con la coccoina, capito? Perché era è difficile che due giocatrici così piccoline riescano a trovare un'alchimia così fantastica. D'altra parte lo vedevi anche dai risultati, era un po' che non gli andava più così bene. Veramente quelle due ragazze sono un miracolo di volontà e di sacrificio. Tutto quello che hanno fatto tutte e due, sia la Vinci sia l'Errani, sono veramente dei risultati straordinari, e si è visto ancora di più questa volta il match dell'Errani contro la Serena Williams, sì. Anche se non era, diciamo, la Serena Williams a postissimo, ma colpa sua, non c'entra niente, certo, questo con la prestazione. Però ecco, quella ragazzina lì così piccolina, con quel servizio, con quei colpi strappati, povera figlia, una fatica fa incredibile. Giocare anche un doppio, guardate che è una cosa sovrumana, poverina, ha sostenuto dal punto di vista fisico, negli ultimi 5-6 anni ha sostenuto delle... Teniamo presente che a Rio non si giocherà sulla terra, si giocherà sul cemento. Quindi io sinceramente penso che bisognerebbe invece, se la Vinci fosse recuperabile, tentare di giocare con quel doppio lì, altrimenti è ancora Errani Bennetta, è ancora meglio che Errani Vinci, visto che secondo me quel doppio non si recupera. Senza più. Dimenticare che Flavia anni 33, Roberta Vinci anni 32. Certamente questo è un fattore sicuramente che bisognerebbe tenere presente, ma la fatica che fa l'Errani in ogni suo singolare è talmente tanta che alla fine anche, cioè, il fatto poi il doppio, sai, si fa la metà della fatica in realtà. Sì, sì. E non dimentichiamo che Vince Pennetta insieme hanno vinto un titolo juniores a Roland Garros, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere a livello giovanile, certo. È vero, è un altro livello, ma a venire buon figlio hanno vinto tutto, quindi ecco, io la penso in questo modo. Ora non vorrei essere il bastian comunque, guarda, tanto, però... intanto Vincenzo, ci teniamo questo risultato che ci tiene nella Serie A ci ridà, al di là di questo, noi avevamo battuto gli Stati Uniti sempre guadagnando fra l'altro due finali di Fed Cup, sempre soltanto senza le Williams. Ora questa volta qui una non è voluta venire, l'altra è venuta in condizioni meno male. L'altra io leggevo, è venuta a mangiare la pizza. Cioè... Ma no, ma era una cosa impressionante in campo. Non so se avete visto le immagini, cioè sembrava la Mami di Via col Vento. Sì. Nonostante ciò ha vinto due singolari, non dimentichiamo, perché malgrado il grandissimo primo set della Giorgi, la ragazza, la Serena, che sa anche giocare a tennis, ha cominciato a servire in tutt'altro modo, serviva in modo intelligente, cambiava continuamente e ha vinto una partita di intelligenza, e la seconda l'ha vinta col cuore, perché era arrivata sotto 6-4, 5-4, 30-15 per l'Errani, a due punti dal match, ha rovesciato ancora un match difficilissimo con un Errani che ha ceduto un centimetro quadrato dietro centimetro quadrato, sembrava l'Italia della prima guerra mondiale, cioè non mollava un centimetro, e nonostante questo ha vinto lei, questo significa parecchio, ecco. E noi comunque abbiamo riacquisito secondo me una credibilità anche internazionale, perché sai, comunque sia, noi abbiamo vinto due Fed Cup con le americane di Serie B. Questa volta noi abbiamo mandato in Serie B le americane che potenzialmente potevano esprimere il massimo, sono state loro che una volta in campo Vincenzo, problemi loro, fatti loro, bravo, la prossima volta questo ci pensano sport, meglio questo è lo sport, bravo. È la bella legge che noi abbiamo dato dello sport, prossima volta ci ripensano. Grazie Vincenzo Martucci, è sempre un piacere, ciao. Ciao Vincenzo. Purtroppo non faccio il tempo a parlare con altri ascoltatori, ma domani tutto lo spazio che volete. Paolo da Terni mi scusi, però domani intanto alle 2, ripeto, siamo qui sempre con Alessandro Marco Tulli, Daniele Bonamici in redazione, credo anche con Gianmarco Ferronato in regia, mi confermerai? Sì. Bene, ciao a tutti, domani tutti convocati alle 2. Arrivederci ragazzi, ciao!